Buongiorno e benvenuti alla puntata zero di Pillole di Consapevolezza. Impariamo a volerci bene su Radio Big World. Siamo Energicamente e siamo un'associazione che nasce da un gruppo di professionisti esperti in attività di formazione normativa, medicina, studi e ricerche esercitate nell'ambito del benessere e dei servizi alla persona, in particolare nel campo della prevenzione e della gestione dello stress. Attraverso l'uso di tecniche mirate che vanno dal personal empowerment al counseling cognitivo-relazionale e ricorso a discipline olistiche più efficaci quali Reiki, Shiatsu e riflessologia, interveniamo per il recupero della condizione omeostatica dell'individuo con un'importante funzione di prevenzione rispetto all'insorgenza di malattie e debilitazioni, le quali, come dimostrano recenti studi elaborati scientificamente validati, sono l'espressione fisica di un cattivo o un mancato funzionamento dell'ordine basilare e di una disarmonia tra il corpo e la mente. Il nostro fine quindi è quello di prendere il contatto con la misura, con l'unità, l'armonia e la centratura della persona che, se perso nei confronti di se stessa e del contesto di riferimento in cui vive e agisce, comporta lo smarrimento di fattori centrali stessi di ciò che è comunemente ben inteso come lo stare bene. Consideriamo quindi il benessere come la condizione omeostatica di un individuo che tuttavia non è affatto statico, piuttosto è in costante evoluzione. Seguendo la piramide di Maslow, la formazione e lo sviluppo di competenze e consapevolezze porta alla realizzazione di fabbisogni via via più evoluti e raffinati. La soddisfazione di desideri considerati un tempo difficilmente raggiungibili porta alla nascita di altri fabbisogni e desideri che perturbano già essi stessi la condizione omeostatica originaria. A questo vanno aggiunti poi i fattori stressogeni di caratteri generali e sociali e ancora altri di tipo particolare e specifico. È evidente che il novero di tensioni strain possa portare poi a un eccesso di carico o un disequilibrio, che se non gestito e corretto adeguatamente rischia di produrre problemi anche seri. Intervenire quindi in maniera coerente con azioni volte al mantenimento e al recupero del benessere pertanto consente di prevenire l'insorgere di malattie con un effetto positivo non soltanto sugli individui ma anche sull'intero sistema a cui gli individui stessi si riferiscono. Divulgare quindi la cultura del benessere e formare competenze adeguate al suo sviluppo in modo più possibile professionale e qualificato d'accordo con le istituzioni centrali e territoriali a questo proposte è la vocazione di Energicamente. Io mi chiamo Franco Cesari e mi occupo di Reiki e di counseling cognitivo-relazionale, quindi il mio campo di ricerca, di studio e di intervento verte su tutto ciò che significa recupero di disarmonie, di distress e quindi di una relazione d'aiuto nei confronti dell'individuo per poter poi superare questa condizione di disequilibrio e ricondurre il tutto a un'omeostasi anche da un punto di vista psicofisico. Io sono Elisa Pasquini, mi occupo di rimedi floreali per le persone e per gli animali, oltre ad essere un'educatrice cinofila e un'operatrice Reiki. E mi occuperò e vi guiderò nel magico mondo dei fiori e come potete usarli nella vita di tutti i giorni. Buongiorno a tutti, io mi chiamo invece Francesca Romano, sono il presidente di Energicamente all'interno dell'associazione. Come operatore olistico mi occupo di Reiki, sono infatti Master Reiki, mi occupo anche di riflessologia plantare e di tecnica metamorfica, oltre a effettuare nell'ottica sempre del riequilibrio e della riconduzione dell'individuo alla sua omeostasi fisica, psichica e spirituale, anche dei trattamenti olistici in generale. Per quello che riguarda Energicamente, inizieremo la nostra avventura nel mondo olistico la prossima settimana. Per qualsiasi informazione potrete visitare il nostro sito www.energica-mente.it, visitare alternativamente la nostra pagina Facebook oppure scriverci a info@energica-mente.it, alternativamente contattarci se volete anche via WhatsApp ai seguenti numeri: Elisa 339-3860-123, Franco 329-8989-669 e Francesca 340-2345-340. Ringraziamo David e Giorgio di Radio Big World per l'opportunità che ci è stata concessa, vi salutiamo e vi auguriamo un buon fine settimana e alla prossima puntata. Ciao! Ciao! Ciao.